Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, state bene? Avete riposato questa notte? Io devo dirvi un po' così e così. Continuavo a sognare e a svegliarmi. Una fatica. Ne ho fatte di tutte, nuotavo, poi facevo un esame, poi andavo a passeggio con il mio cane, lo chiamavo, lei non mi riconosceva più. Insomma, affaticata, ma a parte la seccatura, questa notte così agitata e poco riposante è caduta a fagiolo, perché proprio oggi parliamo di sonno e di sogni. Forse nel preparare la puntata mi sono talmente identificata che, come si dice, me la sono un po' gufata. Ma non tutto il male viene per nuocere, perché oggi approfitterò anch'io dei miei esperti. Naturalmente a voi la precedenza, 800 24 00 24. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Schopenhauer. Del nostro sonno e dei nostri sogni parleremo oggi. Utilizzate quindi sin da subito il nostro numero 800 24 00 24. In linea con noi il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei Nicoletta. Professore, oggi è l'undicesima giornata del dormire sano, il tema di questa edizione è sonno e cuore. Insomma, in questa occasione voi esperti del sonno ci dite: attenzione, se dormite meno di 6 ore, con buone probabilità il vostro cuore non è contento, fate qualcosa. E io aggiungerei: non è contento neanche chi vi sta accanto, perché non dormire bene comporta anche un cambiamento dell'umore. Ma professore... Ma il tema è dedicato appunto al rapporto sonno e cuore, perché sappiamo benissimo che una delle funzioni fondamentali del sonno è quella, ad esempio, di far scendere la nostra pressione arteriosa durante la notte, far lavorare di meno il nostro cuore. Tutto questo avviene perché c'è l'inibizione del cortisolo, che è l'ormone dello stress, e una buona notte, quindi non soltanto poi sul piano della quantità, del numero di ore, ma anche della qualità, riesce a inibire potentemente questo cortisolo, e quindi dormire serve anche per mettere in una condizione di riposo tutto il nostro apparato cardiocircolatorio. Tra l'altro, sul sito dormiresano.it c'è proprio un test sull'insonnia, quindi se non dormite collegatevi, professor Ferini. Sì, cioè, ecco, colleghiamoci, così magari possiamo avere intanto l'idea se ci sono dei possibili segnali di insonnia. Ecco, chiaramente una volta fatto il test poi dobbiamo andarne a parlare col nostro medico di famiglia e non chiaramente dire ok, sono insonne, quindi magari prendo la pillola di mia nonna, che alla nonna fa tanto bene, quindi farà bene anche a me. Quindi la cosa importante è comunque essere in allerta per quanto riguarda il proprio sonno e capire che il sonno appunto non è un'opzione, ma è una cosa molto importante. Tra l'altro c'è un altro svantaggio a non dormire, perché chi non dorme non sogna. È vero che può sognare ad occhi aperti, ma è un'altra storia, direi, un altro luogo. C'è un luogo dove accadono le cose più strane, dove il tempo e lo spazio sono oggetto di una beffa continua, dove convivono il tragico, il grottesco, l'assurdo. Questo luogo è il sogno, a metà strada fra preistoria e fantascienza. Il sogno è anche il luogo di tutte le ambiguità, l'anagrafe di tutti i fantasmi che popolano la nostra mente, lo spazio dove si incontrano persone e cose della vita, ma che più spesso esistono solo lì e non hanno alcun riscontro nella realtà. Sogno, luogo di tutte le ambiguità, è una descrizione puntuale, direi anche molto raffinata, quella che del sogno fa Luigi Malerba nel suo libro La composizione del sogno, edito da Einaudi. Dato che il sogno rappresenta una parte di noi, della nostra vita cerebrale, affettiva ed emotiva, noi partiremo proprio dai nostri sogni per capire qualcosa di più della qualità del nostro sonno, ma anche per raccogliere informazioni sul modo in cui affrontiamo la vita. Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo sia la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico. Jung. fin dall'antichità i sogni sono al centro di interpretazioni, di ipotesi, più recentemente anche studi scientifici che cercano di svelarne l'origine, la funzione e il meccanismo con cui questi sogni avvengono. Professor Ferini Strambi, per un neurologo, per un esperto di medicina del sonno, che cos'è il sogno e quali informazioni come medico le fornisce? Allora, innanzitutto il sogno per il neurologo è qualcosa di strettamente collegato a una fase particolare del sonno, che è il sonno REM, ovvero sia il sonno caratterizzato da movimenti oculari rapidi. Sì. Questa fu una scoperta fatta nel 1953 da due americani, da Clayton e Aserisky, che scoprirono appunto che durante la notte i soggetti in alcuni momenti muovevano velocissimamente gli occhi. Ecco, però la prima cosa importante da dire è questa: non c'è soltanto una stretta associazione tra sogno e sonno REM, anche perché sappiamo oggi che si può sognare, anche se in maniera un po' diversa, anche durante il sonno non REM. Cioè, quindi sicuramente la parte più bizzarra, sa, quando si riescono a mettere insieme tante cose che non c'entrano niente tra di loro, no? Sì. Che si riescono appunto a collegare, ecco, questo lo si fa sicuramente durante il sonno REM, lo si fa durante questa parte importante della notte che occupa circa il 20% del nostro sonno e quindi è sicuramente una fase importante. Non dimentichiamo poi che è importante per tanti motivi, adesso non voglio entrare nella parte, diciamo così, più psicanalitica, psicologica, interpretativa, ma sul piano proprio ad esempio anche di quello che può essere il rinforzo della nostra memoria. Sì. La memoria, soprattutto quella che noi chiamiamo memoria implicita, che non è la memoria della poesia, no? La donzelletta viene dalla campagna, ma è la memoria del saper fare le cose. Ecco, questa memoria viene rinforzata molto, viene, diciamo così, ad essere strutturata molto bene proprio durante il sonno REM, che è quello appunto collegato essenzialmente ai sogni. Prof, d'altra parte si dice la notte porta consiglio. Assolutamente. Vede, no? questo poi l'abbiamo. Oggi ci sono delle ricerche che hanno dimostrato proprio questo, come la nostra attività del giorno e le nostre scelte effettuate durante la giornata vengono proprio preparate durante la notte. Questa è la lettura di un neurologo, ma c'è un'altra lettura e noi ne parliamo con il dottor Jacopo Valli, psicologo clinico, specialista in psicoterapia orientamento psicosomatico analitico, che è in studio con me. Buongiorno, poi buongiorno. Le racconterò tutti i miei sogni. Allora, dottor Valli, la psicologia analitica, senza tralasciare di interrogarsi sulle relazioni tra le funzioni neurologiche e quelle mentali del sogno, si focalizza maggiormente sul senso che le rappresentazioni proprio contenute nel sogno assumono per i singoli individui, per i sognatori. Che cosa ci racconta? Sì, è vero, i sogni innanzitutto costituiscono un messaggio prezioso che proviene dall'inconscio e ci aiuta a capire cosa si sta vivendo a un livello quindi profondo. Capire il messaggio significa capire dove si sta andando, che cosa non sta funzionando nella nostra vita, quale tema costituisce un complesso che toglie energia proprio perché risiede nell'inconscio. Il sogno segnala, possiamo dire, una direzione, invita a esaminare una situazione diurna, no? Che noi viviamo di giorno. Data la situazione come ora, possiamo dire, il sogno ci dice come è possibile che si sviluppi. Wow! Ecco, esiste. Questo mi piace molto. Sì. Un po' però mi fa la inquieta. Un po', sì. No, beh, in realtà non c'è nulla di rigido. Diciamo è una direzione, ci invita a fare delle riflessioni su come noi possiamo intenzionalmente poi muoverci nel mondo concreto diurno grazie a questo messaggio, a questo elemento che ci viene appunto dall'inconscio e dal profondo. Quindi è il suggeritore dell'inconscio. Il sogno. Diciamo che è una guida. Secondo me costituisce proprio una guida, proprio perché nell'inconscio c'è una saggezza e una verità profonde, no? Che vanno al di là della volontà cosciente dell'individuo. Quindi grazie a questo, come dire, a questo potere proprio luminoso, superiore, se noi in qualche modo ne cogliamo il significato, ecco che riusciamo a seguire una guida interiore per diventare ciò che in realtà noi siamo profondamente. Bene, allora fuori i sogni, ne scopriremo delle belle, ma intanto, dato che è vero che tutti sogniamo, ma è vero anche che ci sono delle persone che diventano veri e propri sogni, come Maria Grazia Cucinotta, attrice, regista e sogno di molti italiani, che è in linea con noi. Ciao Maria Grazia e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Allora, oggi Maria Grazia ti chiediamo di partecipare al nostro quiz test sui sogni, perché i sogni parlano di noi. Sei pronta? Sono prontissima. Andiamo allora. Al mattino ti capita di avere la sensazione di aver sognato, ma non riesci a ricordare che cosa? Ma spessissimo mi sveglio e non ricordo cosa ho sognato, però questo mi influenza anche tutta la giornata, perché magari non lo ricordo, però restano delle cose nella mente. Hai mai sognato di volare sospesa nell'aria e ricavarne una sensazione di piacere? Beh, ho sognato di volare, ma poi io sono sempre talmente in volo che che quasi quasi il sogno non c'è, perché in realtà forse sogno di restare con i piedi per terra. I tuoi sogni li tieni per te o li condividi? Ma io i sogni mi piace condividerli con le persone amiche, con le persone che amo. Esiste un sogno ricorrente che fai da tanto tempo e sembra sempre uguale? Ma una volta sognavo questa grande onda che arrivava e mi portava via. Ma soprattutto quando ero piccola, forse era perché vivevo su un'isola, forse perché comunque sono cresciuta in mezzo ai terremoti, allora era una paura, non lo so, sempre quest'onda che altissima che arrivava e ci spazzava via. Ci sono sogni di cui ti vergogni? Ma assolutamente no, forse un po' quando faccio gli incubi mi sveglio e un po' resto così, mi piacerebbe abbracciare qualcuno. Maria Grazia, sicuramente qualcuno anche vorrebbe abbracciare te, questo è sicuro, ma intanto sveglio dal sogno i miei due ospiti, che saranno sognanti, ma io vorrei sapere adesso un sogno ad occhi aperti, un sogno che vorresti realizzare nell'immediato. Ma tanti, non ce n'ho uno solo, io sono proprio una fabbrica di sogni, quello di riuscire a portare veramente i ragazzi al sud a fare un lavoro attraverso il cinema, dove possono realizzare anche i loro sogni senza dover lasciare la Sicilia. Maria Grazia, programmi, a che cosa stai lavorando adesso? Adesso sto lavorando a delle commedie, una coproduzione con la Cina, e sono due cose che mi stimolano moltissimo, e soprattutto quello con la Cina, perché riuscire a entrare attraverso il cinema in una terra così lontana e unire due culture è veramente, attraverso un film, è veramente un sogno meraviglioso. Grazie per essere stata con noi, buona giornata a Maria Grazia Cucinotta. Un bacio a tutti, grazie. Dottor Valli, che cosa le racconta Maria Grazia Cucinotta? Ci ha dato delle informazioni importanti raccontandoci i suoi sogni? Ah sì, intanto lei ha parlato, appunto, ha detto che spesso sognava di volare, no? Ecco, un sogno di questo tipo ha una funzione, come dire, tipica, cioè sì, compensatoria. Ossia, se la coscienza è monoorientata, ecco che l'inconscio e il sogno, perché l'inconscio parla per immagini, no? Il sogno è costituito da immagini, ecco che compensa questa unica direzione che ha la coscienza. Quindi, se una persona in questo caso sogna di volare, è proprio perché si sente probabilmente molto costretta nella vita diurna, come se fosse in una gabbia. Infatti lei dice: io volo spesso, sognerei di rimanere con i piedi per terra, e poi parla di un'onda. Ci sono tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo: anch'io sogno l'acqua, sogno l'onda. Noi siamo un po' abituati a interpretare i sogni e dire: va bene, allora il cane, fedeltà, i denti portano male, ma non è la lettura che è giusta da fare, no? Non bisogna farci condizionare da queste semplificazioni, questi significati che sono ben lontani dal significato che invece può attribuire la psicologia profonda. Esattamente, è così, perché diciamo questa letteratura, no, un po' semplicistica, che vuol ridurre, ha molto poco senso. Un simbolo, i sogni, come dire, sono spesso simbolici, no? Il simbolo ha tanti elementi, ha tanti significati, e se noi riduciamo il dente simbolicamente vuol dire questo, o questo, no? O l'onda, o il mare vuol dire quell'altro, ecco che perdiamo quello che è la grammatica dell'individuo. Però io questa grammatica vorrei che oggi lei ci aiutasse a consultarla, e lo faremo sicuramente. 800 24 00 24, chissà che cosa sogna il professor Ferini Strambi. professore? Sì, no, è una domanda. Cosa sto sognando adesso ad occhi aperti? Nulla. No, ma ad esempio, perché io penso, chi si occupa di sonno, chi si occupa di sogni, chissà quando poi sogna e al mattino se li ricorda, che così analisi ne fa. Ma insomma, professore, se lei poi vorrà raccontarci nel corso della trasmissione anche i suoi sogni, intanto io sento magari quelli di Francesca da Bologna, o magari Francesca non sogna, invece che di sogni vuole parlare di sonno. Buongiorno Francesca. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. E io vado a letto che sollo proprio, circa mezzanotte, e mi sveglio alle 7 della mattina, ma sì, appena apparentemente mi addormento mi sembra di iniziare subito a sognare, ma uno dietro l'altro, anche se magari mi sveglio perché forse ho il sonno leggero, se il bambino chiama sento io, non sente mio marito. Eh beh, questo è un classico, Francesca. E però mi riaddormento, riprendo a sognare e mi sembra sempre di viverli molto molto intensamente, tanto che anche la mattina, soprattutto se sono stati sogni impegnativi, sì, mi sembra di aver fatto delle fatiche. Però anche, no, ma è quello che è capitato a me stanotte, ero esausta, ne ho fatte di ogni. Professor Ferini Strambi. Ecco, questa è una cosa molto interessante, quella della nostra ascoltatrice, perché abbiamo detto prima che il sognare è importante, sicuramente importante e fondamentale. Essendo però strettamente legato al sonno REM, noi abbiamo scoperto una cosa, che quando un soggetto sogna tanto e quindi fa tanto sonno REM, a volte al mattino si alza distrutto, cioè, quindi abbiamo scoperto proprio che c'erano delle persone che dormivano 7-8 ore e non si riusciva a capire perché poi in realtà al mattino erano così stanche perché avevano impiegato tanto del loro tempo nel sonno REM, che appunto è un sonno, non a caso il sonno REM si chiama sonno paradosso, proprio perché è un sonno in cui si consuma molto, e quindi questo prescindendo anche dal contenuto, no, sì, del sogno. Quindi fare tanto sonno REM non è un bene. Stanca, ecco, sognare stanca, è perché ci giochiamo un'altra vita in fondo. Luana da Perugia, buongiorno. Buongiorno, sì, anche io sono una persona che ultimamente fa dei sogni molto confusi, molto lunghi e molto inquietanti. Ho sognato recentemente una nube grigia, sì, e mi sembrava come se stessi soffocando. Poi a un certo punto da questa nube grigia si è aperto tutto un cielo celeste con tutto un prato verde. Sì, ho sentito come un respiro. Un respiro, un senso di respiro. Dottor Valli, la nube quindi incombe e poi finalmente arriva il cielo sereno, si squarcia il cielo, il prato, quindi un'immagine rilassante. Ma noi di fronte a questi sogni un po' bizzarri, da che cosa partiamo per tirare un po' le fila? Ma guarda, intanto da soli è, direi, impossibile, lo anche per noi analisti e terapeuti, valutare esattamente messaggio. Però andarci vicino, sì. Ma diciamo che in questo sogno, in questo particolare, sembra che ci sia una situazione iniziale di confusione, una situazione iniziale di angoscia, proprio perché l'emozione che sottende, no, la visione di questa nube è appunto di angoscia, che poi si apre invece in una situazione rasserenerante. Quindi posso solo ipotizzare, non conoscendo gli elementi specifici, io chiederei all'ascoltatrice che cosa, secondo lei, che collegamenti fa con la nube nera, che cosa le ricorda, che cosa ha vissuto, quali emozioni, quali situazioni. Quindi è importante che noi facciamo dei collegamenti con la vita che facciamo, no? Sì, delle associazioni, esattamente, delle associazioni, cioè che cosa la persona attribuisce a quell'elemento del sogno. In particolare questo sogno però ci può dare in generale un'apertura, da una situazione di angoscia ecco che c'è una risoluzione. Professor Ferini Strambi, un'ascoltatrice mi scrive: ma dormo bene tutte le notti, ma mi sveglio, sono affaticatissima. Sarà colpa dei troppi sogni? Ma non me li ricordo. Che dire? Potrebbe essere colpa appunto dei tanti sogni. Non dimentichiamo che al mattino, prima del risveglio, basta fare un brevissimo periodo di sonno non REM, e questo può cancellare completamente il ricordo del sogno, quindi spesso poi è questo il motivo per cui non li ricordiamo. Tant'è vero che tutti invece i soggetti che tendono ad avere ad esempio un sonno frammentato, cito due situazioni, sì, i soggetti insonni che si svegliano tante volte nel corso della notte, i soggetti che fanno le apnee durante la notte per cui hanno frequenti risvegli, ecco, questi soggetti ricordano molto bene i sogni, proprio perché spesso questi risvegli avvengono durante una fase di sonno REM e quindi il soggetto ricorda benissimo il sogno. Questa è la spiegazione del professor Luigi Ferini Strambi, quindi così legge il fatto che molti non ricordano i sogni, la neurologia è la scienza che studia il cervello e il sogno nelle sue varie fasi, ma la psicologia analitica, pur non naturalmente sempre interrogandosi sulla relazione, sulle funzioni neurologiche, ne dà anche un'altra lettura, un altro suggerimento che non è in contrapposizione ma suggerisce un elemento in più. Le persone che non ricordano i loro sogni sognano, ma secondo la psicologia del profondo potrebbero essere persone che, dottor Valli, che in qualche modo si difendono con la rimozione, che è appunto un meccanismo di difesa, quindi dimenticano perché non vogliono affrontare determinati argomenti, dei temi che emergono appunto nei sogni. E direi che è un gran peccato, proprio perché il sogno ha veramente una funzione fondamentale nella nostra vita. Ricordarli, io dico sempre ai miei pazienti, o in generale lo consiglio a tutti, di tenere un diario dei sogni, e quando si è ancora in questo stato alterato di coscienza, quindi tra sonno e veglia, appena ci si sveglia, cercare di mettere come dire, a parole nella propria mente le immagini che ci sono pervenute con i sogni, scriverle e tenerle. Allora, dalla regia mi stanno avvertendo che in linea abbiamo Rosanna Banfi. Per me è veramente una grande gioia. Rosanna, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ma che bello. Ma tu sai che io ti seguo tutte le mattine. Io allora... lo so, infatti questa è una coccola che mi arriva. Sentendo questo argomento ho detto chissà se mi fanno intervenire, perché volevo raccontare un brevissimo episodio se ho la possibilità. Certo. Allora, quando, sai, ti ricordi che insomma io sono stata malata, ho avuto certo. un tumore, no? Sì. Nel periodo della chemioterapia, ero in vacanza con la mia famiglia e ho fatto un sogno meraviglioso, ma veramente che lo ricordo ancora e mi vengono i brividi, perché mi sono svegliata felice, veramente con la felicità che mi sprizzava, e ho detto è finita, ho capito che da questo sogno voleva dire che era finito il mio calvario, e ho sognato che andavo a fare un provino. Sì. In realtà mi addormentavo su una sedia mentre aspettavo di fare questo provino e sognavo all'interno del sogno, capito? Dove arrivavano, mentre stavo lì appisolata su una sedia, tre drag queen sì. enormi, con le parruccone, e una bionda, una di colore, una con i capelli bianchi, meravigliose, altissime, entravano ballando e mi prendevano per mano e cominciavamo a ballare insieme, con una musica tipo, sai, una musica anni 50, sì. fai conto, no? Alla Marilyn, sì. E ballavamo, volteggiavamo, mi facevano girare, mi fa, guarda, ti giuro, ogni volta che lo racconto questo sogno... A me vengono un po' i brividi, Rosanna, giuro, perché... Anche a me, è stato bellissimo, e tu... abbiamo ballato e cantato e riso insieme con queste tre donnone enormi, tanto che un signore, sempre nel sogno, che stava lì, dice, perché non fate un numero? D'altronde qui siamo a Las Vegas, ci dice questo un signore col papillon. E poi mi sono svegliata. E hai capito. E ho detto, vuol dire che è finita. Un sogno così bello vuol dire che è una gioia. Ma sono passati 2 anni. Me lo Rosanna, è bellissimo che tu l'abbia raccontato a noi, che abbia condiviso con noi questo sogno, questa esperienza. Io sono contenta che lo sentano molte donne che ci stanno seguendo, che stanno attraversando un momento difficile, a cui noi dedicheremo sicuramente una puntata, che stiamo accompagnando. Rosanna, un abbraccione di quelli speciali, davvero. Grazie, buon lavoro. Grazie per essere stata con noi, per aver condiviso con noi questa storia. E io non lo so, ma di fronte, sì, dottor Valli, io mi commuovo un po', perché sono cose intense, no? Raccontate, mettere proprio, condividere queste cose così intime, ci mette in relazione e ci scopre un po', no? Sì, io credo che è vero, insomma, sogni come questo, no? Come quello che ci ha raccontato, in realtà sono veramente dei sogni che sono un po' il film della nostra vita, lo spettacolo della nostra vita. Se noi sogniamo di vedere un film, di vedere un'opera teatrale, di essere in uno show, ecco che racconta veramente la nostra vita, dobbiamo fare particolarmente attenzione. Ecco, poi la signora Banfi ha pensato proprio questo, cioè che in qualche modo c'era uno sviluppo positivo della sua situazione. condizione appunto di salute, e in realtà era così, perché se una persona all'esterno dice questo qua è uno show, perché lo mettete su uno show, perché non vivete poi come dire serenamente, certo, no, con gioia. E quindi... infatti lei ha detto, ho capito che stavo uscendo fuori. Professor Ferini Strambi, molte persone quando non hanno problemi di salute hanno sonni disturbati e anche sogni che alterati. Certo, adesso mi veniva in mente, ascoltando appunto Rosanna Banfi, mi veniva in mente anche quella un po' che è la differenza nell'estrinsecare le proprie emozioni nei sogni tra uomo e donna, no? E allora mi è venuto in mente il primo studio che è stato fatto proprio su questo argomento, nelle differenze uomo-donna, che è stato fatto appunto da Van de Castel nel 1966. Noi eravamo bambini, Nicoletta, cioè eravamo nati da poco, e già Van de Castel faceva questo studio in cui emergevano queste differenze tra uomo e donna. Ad esempio, nel sogno degli uomini ci sono molto più frequentemente gli ambienti esterni, no? Mentre nelle donne spesso sono più presenti gli ambienti proprio familiari. L'altro aspetto, ad esempio, caratteristico è che nel sogno dell'uomo, ad esempio, c'è una maggiore percentuale di personaggi maschili, molto più di quello che si osserva nelle donne. Quindi nelle donne invece, ecco, ci sono ad esempio sogni più ricchi di persone, no? Cioè, quindi più attori nel sogno delle donne, e come dicevo prima ci sono più emozioni esplicite nel sogno della donna rispetto all'uomo. Non so se anche diciamo così, questo può essere accettato anche da Jacopo Valli, questo studio appunto di Van der Castel, ma sicuramente anche quando a lui riportano i sogni c'è un atteggiamento diverso tra uomo e donna. Non so se è così. Guardi, io credo questo, che in realtà sì, può avere un senso naturalmente. Penso però che sia, come dire, il livello di consapevolezza che raggiunge l'individuo. Quindi in generale possiamo dire che gli uomini hanno un livello di consapevolezza diverso dalle donne, perché sognando altri uomini significa che hanno in qualche modo una cattiva percezione della loro coesione interna, perché sognano parti di loro stessi. Anche ambienti le donne sono grandi sognatrici. Ho sognato Silvano, poi mi sono svegliata e non sono più riuscita a dormire. Beh, ti è andata bene, noioso come eri, scavi non svegliarti mai più. Magari gli uomini fossero noiosi come lui. Era una bestia scatenata, una vera forza della natura. Eros in persona. Silvano che assomiglia a Ramazzotti. La smetti con queste battute idiote? Ti sto dicendo una cosa importante. Ti giuro che non ho mai visto niente del genere. Era un campione di sensualità. Occhio, perché i sogni sono desideri. Io una volta al mese sogno di essere come Gandhi. Una guida spirituale? Magrissimo. Ogni notte lo stesso sogno, capisci Silvano? Io sono qui in area relax e ci sono anche Luca e Paolo. Che però sai come succede nei sogni? Non sono proprio Luca e Paolo, e poi ci sei anche tu che muori. Sì, io che non sono proprio io che muoio. No, sei proprio tu Silvano, ma non fare quella faccia, è una cosa bellissima. Quando qualcuno sogna che muori ti allunga la vita. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme a voi, insieme ai vostri sogni. Abbiamo già Ilaria che ci chiama da Napoli, Enrico da Forlì. 800 24 0024, a tra poco. E se mi sognerai, dal cielo cadrò. Se domanderai, da qui risponderò. E sulle notti di Sognami di Biagio Antonacci, come potevamo non metterlo? Andiamo a Napoli, c'è Ilaria, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Buongiorno a tutti. Senta, volevo chiedere insomma chiarimenti su un aspetto inquietante dei miei sogni. Mamma io sogno mia. Tantissimo, sì, io sogno tantissimo, ho un sonno leggerissimo, quindi praticamente ricordo anche i dettagli dei miei sogni per anni, tra l'altro. Sì. E sono moltissimi anni da quando ero ragazzina che faccio sempre sogni molto cruenti, cruenti nel senso dove è sempre presente dove spessissimo è presente un atto violento proprio, e dove spesso c'è il riferimento, cioè vedo il sangue nei sogni. E in più, negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, mio figlio è piccolino, da quando è nato mio figlio ho questi sogni, continuo a farli, però il soggetto passivo di queste violenze poi nei miei sogni improvvisamente diventa un bambino, anche se non ha le sembianze di mio figlio, ma comunque diventa un neonato, un bambino, e la cosa mi fa cadere nello sconforto più totale, perché ovviamente diventano delle notti, Ilaria, diventano delle notti un po' pesantine, dottor Valli. Ma sì, io credo che in realtà credo che la signora non viva l'aggressività che nella vita di uno probabilmente reprime. E quindi, oppure può anche essere, ci sono più ipotesi, no? Ovviamente non c'è una lettura univoca, lei probabilmente non accetta di di subire ciò che, o non ha consapevolezza di subire una situazione che le sta molto stretta e dalla quale si sente tra virgolette violentata. Poi dice che quando appunto ha avuto un figlio, ecco che diventa il bambino, no? L'oggetto di questa aggressività. Perché cambiano i sogni anche in relazione alla nostra maturità, al modo in cui, no? Sì, probabilmente credo che però in questo caso il bambino sia il bambino interiore, quindi quella parte che noi tutti custodiamo al nostro interno e che sia stato profondamente ferito. Quindi mi sembra che siano sogni che, come dire, ci danno delle indicazioni legato a un malessere profondo di questa persona. Vorrei salutare, anzi ho piacere di salutare il professor Gianluigi Gigli, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Direttore della clinica neurologica dell'Università di Udine e presidente della Società Italiana di Medicina del Sonno, perché con lui vorrei parlare di... Abbiamo detto che il sogno si verifica in nella fase REM, in quella in cui noi entriamo in una sorta di paralisi motoria totale, che è quella che ci assicura il ristoro psicofisico, no? Però ci sono delle eccezioni alla regola, professore, persone che agiscono mentre sognano. E la ricerca se ne è occupata e vorrei sapere da lei perché si è così incuriosita questa cosa e quali informazioni ne ha avuto. Ma dunque, come lei ha correttamente detto, per nostra e per altrui fortuna, mentre stiamo sognando noi non ci muoviamo, siamo immobili perché il tono muscolare è praticamente abolito, sì. Ci sono soltanto mantenuti dei movimenti oculari che sì. Sembrano seguire un pochino anche la scena in qualche modo del sogno. Sì. Fu scoperto diversi anni fa da un ricercatore francese, il professor Jouvet, che con alcune lesioni particolari nel tronco dell'encefalo si poteva invece mettere l'animale, in quel caso era il gatto, in condizioni di agire i suoi sogni, cioè questo animale finiva per sembrar mettere in azione appunto questo, il contenuto dei suoi sogni, del quale peraltro non sapevamo molto perché ovviamente non ce lo raccontava, ma sembrava sognare animatamente con un'attività motoria che era decisamente vivace. Anni dopo si è scoperto che qualcosa del genere avveniva spontaneamente anche nella clinica, nel senso che ci sono pazienti nei quali per cause di cui magari poi diremo qualcosa, si realizza qualcosa di analogo, cioè sono pazienti che mentre sognano cominciano per esempio a parlare o a gesticolare o a muoversi addirittura molto più pesantemente, a causa appunto della mancata abolizione del tono muscolare che devono sapere queste persone? Ma queste persone ci dicono soprattutto qualcosa, ci dicono che il contenuto dei sogni ha a che fare con alcune cose fondamentali che sono soprattutto l'istinto di conservazione dell'individuo, quindi quello che si mette in atto di solito sono manifestazioni di fuga piuttosto che di lotta, piuttosto che di aggressività, che hanno a che fare appunto con la conservazione dell'individuo. Dal punto di vista diciamo della clinica lo troviamo associato soprattutto ad alcune malattie degenerative, ma può osservarsi anche come un disturbo isolato. Oggi quello che si sta studiando è di vedere se quelli che hanno questo disturbo in forma isolata in realtà non siano nient'altro che dei candidati nel prosieguo del tempo allo sviluppo di quelle patologie di tipo degenerativo. Quindi cioè, potrebbe essere un segnale anticipatorio, esatto, professor Gili? Questo che naturalmente ci darebbe delle armi in più, se così fosse, poi in futuro, per mettere in atto delle terapie di tipo neuroprotettivo, nel senso che se effettivamente potessimo dimostrare che il processo degenerativo non fa altro che cominciare all'inizio in un'area che parla, per così dire, esclusivamente dal punto di vista della motricità nei sogni e poi dopo magari porta ad altro, che ne so, una malattia di Parkinson per esempio, allora potremmo probabilmente cominciare a curare quei soggetti con anticipo molto tempo prima. Tra l'altro, professore, io sono in chiusura, volevo ricordare, dato che abbiamo parlato di cervello, che in questi giorni si parla molto di cervello perché è in corso la settimana del cervello, con dibattiti, appuntamenti, conferenze, laboratori. Potete trovare delle indicazioni su www.neuro.it. Io penso di avere ancora un minuto. Roberto Scaltritti, intanto che ringrazio il regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, abbiamo un minuto. Intanto ringrazio il professor Gigli, ci sentiremo nuovamente. Grazie per approfondire. Professor Ferini Strambi, in chiusura, in questa nostra trasmissione da cui siamo passati dal sonno al sogni eccetera, che come ci lasciamo? Un messaggio e poi chiedo anche al dottor Valli, ma stringatissimo. No, il messaggio è questo, finisco con una frase di Proust: è meglio sognare la propria vita che viverla, benché viverla sia ancora sognata. Ecco, questo è quello che dico ai miei figli quando mi fanno arrabbiare, no? Dico, per fortuna che c'è il sonno e c'è il sogno, perché... Questo è stato veramente un colpo da maestro. Dottor Valli, come replica, se la giochi anche lei? Guarda, io direi invece, do un consiglio molto più pratico e meno lirico. Scrivetevi i sogni, ricordatevi i sogni, lavorate su questi e cercate di mettere in pratica il messaggio che vi danno. E intanto scrivete, se volete, anche a Essere Benessere. Se andate sul nostro profilo Facebook, noi siamo molto molto contenti. Buonissima giornata da Nicoletta Carboni.